Mic check 1 2. Soundcheck. Mic check. Il suono della musica. DJ Jet Telespro. Pomeriggio da Gioge Telesforo, questo è il soundcheck di Radio 24, ultimo appuntamento speciale. Da domani torneremo con la programmazione abituale, quella da 40 minuti a partire dalle 15:20, ma per chiudere in bellezza questo periodo di feste ho fortunatamente un ospite a me molto caro per parlare certamente di musica. Avrei bisogno di molto tempo per presentare tutti gli aspetti che riguardano la vita intensa vicino alla musica del mio amico Ezio Guaitamacchi, che ringrazio e saluto, e benvenuto al soundcheck di Radio 24. Grazie GG, saluto tutti i tuoi ascoltatori. Grazie Ezio. Allora, intanto leggo qui dalla tua biografia, milanese e milanista, vabbè, viaggiatore e tennista, Ezio Guaitamacchi nella vita fa tante cose divertenti, e questa è la verità, no? Però di base tu sei un giornalista accreditato, critico musicale, ma poi vorrei anche parlare della critica musicale, se esiste ancora nel nostro paese. Sei direttore di una rivista bellissima che si chiama Gem, e ultimamente scrivi libri che riguardano, parlano di musica ormai da tanto tempo, ma ultimamente ti stai specializzando anche in thriller legati alla musica, in romanzi molto divertenti e carichi di aneddoti che riguardano proprio le vicende musicali. Quindi parleremo di tutto questo, e intanto una domanda: come è andata a New Orleans? Benissimo, molto divertente, ho fatto il capodanno immerso nella musica, nel calore e nel colore di New Orleans, che è una città che a me piace moltissimo e che ho avuto la fortuna di visitare diverse volte. Ci ho fatto uno special televisivo tanti anni fa per Italia 1, ho partecipato come dire spettatore però a questa fantastica manifestazione che è il Jazz and Heritage Festival, forse il più bel festival di musica del mondo secondo me. E perché secondo te è il più bel festival di musica al mondo? Perché c'è tutto, c'è varietà, c'è partecipazione, c'è cultura, c'è tradizione, dura circa 10 giorni, dura 2 lunghissimi weekend, e c'è proprio gioia di vivere, joie de vivre per dirla alla francese, ed è insomma una, credo che per tutti gli appassionati sia un overdose di straordinaria qualità e forse di terapia, no? Cioè torni da questa vicenda e sei felice per un anno, ecco. Ecco, tu da viaggiatore continui a frequentare gli Stati Uniti, dopo tanti anni 2-3 volte all'anno per motivi diversi ti sposti fra New Orleans, New York, Chicago. Perché gli Stati Uniti continuano a stimolare la tua fantasia? Beh, intanto ti devo dire che l'ultimissima parte del mio romanzo, di questo Psycho Killer di cui parleremo, è stato proprio scritto e concepito nella baia di San Francisco. Io forse c'è stato qualche errore all'anagrafe divina, dovevo nascere da quelle parti, invece sono nato a Milano, e io ho sempre avuto una grande passione, credo come tutti quelli della mia generazione, per l'America è stato veramente un grande sogno, e poi la passione per la musica ha fatto tutto il resto, nel senso che chi è appassionato di musica, di un certo tipo di musica, guarda l'America come veramente la terra promessa, e questo fascino è nel mio caso intramontabile, per cui è vero, ci vado spesso anche per motivi di lavoro, però diciamo che la mia qualifica di viaggiatore ormai ha preso ho preso la patente internazionale, nel senso che ho visto veramente molto del mondo, ho avuto questa fortuna, e devo dirti che la passione per la musica o per le musiche altre è stata spesso una chiave di curiosità che mi ha portato in Africa, in Asia, nel Sud America, insomma in giro per il mondo. In questo nuovo romanzo intitolato Psycho Killer, sottotitolo Omicidi in fa maggiore, il libro parte proprio con un omicidio che ha come sottofondo, credo, la voce di Amy Winehouse, è così? Più che come sottofondo, accade accade nello stesso giorno, il 23 luglio del 2011, in cui a Londra si trova il corpo senza vita della povera Amy Winehouse, e a Milano, in un appartamento di Piazzale Loreto, viene trovato impiccato nella cucina di casa sua il più potente, il più influente ufficio stampa dello show business. Allora, ascoltiamo Amy Winehouse da una delle ultime performance realizzate con Quincy Jones. Il brano si intitola It's My Party. Amy Winehouse e Quincy Jones al soundcheck di Radio 24. Ezio Guaitamacchi è nostro ospite qui al soundcheck di Radio 24. Abbiamo già raccontato come inizia questo psycho killer, ultima fatica da romanziere del nostro Ezio Guaitamacchi, che naturalmente le giornate le trascorre ascoltando tantissima musica, lo fa da sempre, lo fa da giornalista, da critico musicale, ma anche da musicista. Tu dirigi da anni una bellissima rivista che si chiama Jam. Quanto tempo prende dirigere una pubblicazione così importante? Beh, ha preso tanto tempo in passato, poi nel momento in cui tu organizzi un lavoro, il lavoro spesso viene anche delegato ad altre persone, per cui certamente avere un'attività che ruota intorno a un mensile di musica porta via moltissimo tempo per ascolto, per anche relazioni che vengono ovviamente allacciate con tutto il mondo della musica, che anche è quello che ti crea la comunicazione, anche l'aggiornamento, per poi dare a tua volta questo stesso aggiornamento ai tuoi lettori, e crea anche ovviamente spunti per una serie di altre iniziative che io ormai faccio da tanti anni, che però ruotano sempre intorno alla musica. Cioè, qualsiasi cosa io faccio è legata alla musica, che sia un programma televisivo, radiofonico, una scuola di giornalismo come ho, piuttosto che degli spettacoli o appunto dei libri. Il focus è sempre la musica, quindi anche in questo, che è di fatto un giallo, questo psycho killer è infarcito di musica, e se vuoi ha due livelli di lettura, cioè quello del romanzo giallo, che però avviene a Milano nel mondo della musica, e dopo questa prima vittima a un ufficio stampa muoiono con una sequenza abbastanza inquietante altri personaggi influenti del mondo della musica e coinvolti come indiziati. Ci sono dei musicisti indie, uno dei quali sarà poi l'assassino, che viene catturato sul finale del libro dal mio ispettore, che è una specie di piccolo Poirot però che viene da Formello. Quindi è strano, uno di Formello che viene trasferito a Milano e che risolve il caso che nella finzione della mia narrazione è il caso dell'estate 2011 in Italia. Mi sa che ti sei divertito abbastanza a scrivere il libro, anche perché poi il libro è condito anche di un sacco di aneddoti che riguardano gli artisti, la musica, e ne parleremo in questa puntata del nostro soundcheck. Allora, vorrei chiudere la prima parte proponendoti uno dei nostri artisti preferiti, che è l'organista The Incredible Jimmy Smith, qui accompagnato da un grandissimo organico, una big band strepitosa, con un classico del suo repertorio intitolato One Mint Julep. Jimmy Smith al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. In contatto con il soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Nostro ospite quest'oggi è Ezio Guaitamacchi, lo abbiamo detto, ha appena pubblicato un nuovo libro intitolato Psycho Killer, omicidi in fa maggiore, si parla di musica ma è essenzialmente un thriller molto divertente. Ezio, giornalista, direttore di Jam, musicista, vive di musica da sempre, lo fa quotidianamente 24 ore al giorno, c'è sempre in sottofondo a casa nelle cuffiette in viaggio in aereo qualcosa di speciale, ma volevo parlare un attimo del tuo ruolo anche proprio di giornalista. Ecco, com'è cambiato il lavoro del giornalista negli ultimi anni con l'avvento di internet? Perché per noi musicisti sono cambiate le dinamiche anche della fruizione della musica. Per un giornalista com'è cambiato il lavoro? È cambiato molto, anche se interpretandolo come l'ho interpretato io, come una sorta di, tra virgolette, passami, guida all'ascolto, rimane un po' la stessa missione, cioè quella di selezionare e far scoprire agli appassionati le cose più interessanti che il panorama della musica italiana e internazionale offre. Quindi semmai è cambiato o può cambiare la metodologia di comunicazione, ma non la missione. Anzi, da un certo punto di vista questa missione oggi è forse ancora più importante, perché c'è talmente tanto affollamento nelle proposte e talmente tanta confusione che forse qualcuno che possa dare dei consigli a chi cerca poi la qualità, credo che sia ancora più importante, più determinante rispetto al passato. Una volta usciva molta meno roba, il passaparola era più, come dire, tra gli appassionati era un sistema che ancora c'è, però in questo grande marasma che è fantastico, che è il mondo del web, però io credo che qualcuno che appunto dia delle indicazioni, sottolinei, suggerisca, consigli, sia ancora molto molto importante, specie per le nuove generazioni che ascoltano la musica e la fruiscono in maniera molto diversa da come la facevamo noi ragazzi degli anni 70, una fruizione molto più da singolo e non da album, una fruizione molto più variegata e quindi con la difficoltà, no, di essere legati a un solo genere e con spesso anche delle piccole distorsioni, quelle da monomaniaco. Ecco, quindi oggi il mondo del web offre davvero una biblioteca fenomenale, una finestra sul mondo delle sette note, e io credo che sia una grandissima occasione per tutti, soprattutto per chi cerca un qualcosa di significativo nella vita, e la musica lo è veramente, al di là di ogni retorica. Ecco, fino a una ventina di anni fa le dinamiche, anzi la tempistica era questa: l'artista registrava il suo disco, la casa discografica lo produceva, lo metteva in distribuzione e le prime copie andavano a finire nelle mani dei giornalisti che dovevano recensirlo, magari criticandolo, però in questo modo dando la possibilità ai lettori di scoprire prima attraverso il pensiero del giornalista le note e il sound di quel determinato album. Adesso invece le dinamiche sono cambiate, così come la tempistica, tant'è vero che l'artista Beyoncé adesso ha pubblicato un album scavalcando tutto questo meccanismo, mettendolo direttamente in rete a uso e consumo dei suoi beniamini. Questo complica la vita ai giornalisti o no? Ma la difficoltà è anche quella che una volta l'artista faceva un disco e poi andava in tournée per promuovere questo disco, invece oggi l'artista fa un disco per poter andare in tournée, per avere una scusa per andare in tournée, e questo il giornalista musicale lo deve tenere presente, nel senso che il disco a volte non è più, come dire, l'oggetto, il progetto finale, ma il progetto finale è un qualcosa di più completo. In questo modo credo che al di là delle tempistiche che tu hai dato, ci sarebbe bisogno di una capacità di analisi un po' più a 360 gradi, e come dicevo prima, la possibilità da parte dell'appassionato di avere dei referenti che gli possano consigliare, perché è vero che la musica è ancora gratuita, i concerti però no. Quindi il referente però può anche suggerire magari qualche musicista nuovo, qualche emergente, non necessariamente, anzi meglio se non esce da un talent show, e che invece vale la pena di andare a vedere anche nel piccolo locale, anche spendendo dei soldi, ma avendo poi la gratificazione e il ricordo di una bella serata, o addirittura di aver visto in anteprima qualcuno che poi diventerà grande. Io credo che questa sia la vera nostra missione, e io nel mio piccolo l'ho sempre fatto. Mi ricordo, non so, il Ben Harper degli inizi, Tori Amos, tanti altri artisti che siamo riusciti a proporre e poi sono diventati bravi e famosi. Ecco, e noi i soldi li abbiamo spesi più volte per andare a vedere in concerto la bravissima Cassandra Wilson, come mi dicevi, un bel caratterino per questa grande artista che viene dal jazz, ma che ormai si diverte a cantare di tutto, che qui interpreta uno dei brani scritti da Bob Dylan, un artista molto presente anche nel tuo ultimo romanzo, si parla spesso di lui. Il brano è Lady Lay, Cassandra Wilson al soundcheck. Lady. Con il soundcheck, la prova del suono di Radio 24, Ezio Guaitamacchi e dei nostri per parlarci di musica, parlarci della sua rivista Gem e parlarci soprattutto di questa nuova pubblicazione, Omicidi in fa maggiore, ovvero Psycho Killer, un libro molto divertente che scorre via piacevolmente, e naturalmente un thriller, ci sono molti omicidi con sottofondo grande musica, però poi alla fine del libro viene fuori una morale, una piccola critica da parte dell'autore Guaitamacchi forse agli artisti più che al mondo della musica. Perché? È un mondo che io ho sempre difeso, quello degli artisti, però in questo caso i musicisti cosiddetti indie. Spieghiamo chi sono i musicisti indie. È una contrazione di indipendenti o di independent, quelli che si considerano fuori dai grandi giri e che però spesso ricadono nell'errore di invece pensare come un musicista che fa parte del mondo pop. Quindi diciamo nascono tutti come musicisti indie, però l'aspirazione è quella di diventare Michael Jackson. Beh, io non ho mai conosciuto nessuno che sale sul palco e che non ambisca ad avere successo, quindi questo vale anche per il musicista più indie del mondo o per il Kurt Cobain, no? Che proprio da queste pressioni non riesce a uscire. Per cui la mia critica, visto che gli indiziati di questo libro sono proprio dei musicisti che uccidono appunto i discografici, i promoter, i manager, perché attribuiscono a loro tutti i mali della musica e attribuiscono a loro, soprattutto li vedono come la causa dei loro insuccessi. In realtà credo che nel libro, anche se pur in modo divertente o ironico, si cerchi di sottolineare che non è proprio esattamente così. Anzi, ti cito una frase emblematica: il mio ispettore Marco Molteni, nel momento in cui nelle ultime pagine poi riesce finalmente ad arrestare l'assassino, lo ferma e gli dice: bene, adesso che tu hai ucciso i discografici, i promoter, i manager, gli avvocati, i giornalisti musicali, perché ne uccide anche uno. Meno male, vai. Esatto. Cosa pensi? Che otterrai successo? Forse, gli dice, avresti fatto meglio a scrivere una bella canzone. Che è poi la cosa più difficile, no? Perché scrivere belle canzoni oggi, dopo tutto quello che è stato creato, è veramente una cosa difficile. Perché è difficile scrivere belle canzoni? Non lo so, però ti posso citare che questa frase è una, come posso dire, è stata ispirata dal grande Andy Warhol, che quando produsse i Velvet Underground andò da Lou Reed, non da un musicista indie qualsiasi, e gli diceva: "Hey Lou, how many songs did you write today?" Quante canzoni hai scritto oggi? E Lou Reed: "Oggi non ancora nessuna." Allora diceva: "Work, work, work, lavora, lavora, lavora." Tanto è vero che il famoso laboratorio artistico di Andy, lui lo chiamava The Factory, la fabbrica, quindi una grande determinazione, una grande filosofia del lavoro. Non dimentichiamoci che il grande Ennio Morricone disse: la musica è per il 10% ispirazione, per il 90% traspirazione, sudore, lavoro. Ecco, il messaggio che è dietro questo Psycho Killer, Omicidi in fa maggiore, per tutti gli artisti è anche questo. Non pensiamo soltanto che si squarci il cielo, venga una luce, ci illumini, ma bisogna lavorare sodo per arrivare veramente al successo. Però ci sono degli artisti illuminati, e sicuramente illuminata è la meravigliosa Joni Mitchell, che qui ascoltiamo in una sua composizione bellissima, e naturalmente ho preso spunto proprio dal libro di Ezio, visto che fra le canzoni che vengono ricordate c'è anche questo brano intitolato Blue. There is your song from me. La voce inimitabile, lo diciamo spesso qui al soundcheck di Radio 24, di Joni Mitchell con Blue. Nostro ospite Ezio Guaitamacchi, che credo abbia avuto la fortuna di seguire dal vivo più volte, in più occasioni, la bellissima e bravissima Joni Mitchell, un'artista al 100% e anche una brava pittrice, se non erro. Ma mica l'hai vista dal vivo nel periodo quello di Mingus con Jaco Pastorius, Hancock, Wayne Shorter? No. No, non vidi quella tournée, però ho visto diversi altri concerti, l'ho anche incontrata diverse volte. Un personaggio che ha un ego smisurato, ma per la quale io provo un amore altrettanto smisurato. Oggettivamente è stata la prima grande cantautrice donna della storia, l'unica ad aver raggiunto i livelli, lo status artistico di Bob Dylan, che infatti la soffre un po', e ci fu un tour leggero. Beh, se non altro Joni Mitchell canta molto meglio di Bob Dylan. Sì, però ci fu un tour leggendario, tu pensa, misero insieme Bob Dylan, Van Morrison e Joni Mitchell. Quindi io non so il road manager come ha fatto a gestire quella situazione. Tre dei più, come dire, grandi rompipalle della storia del rock, da ognuno con un ego pazzesco. Johnny è un personaggio che adesso ha compiuto 70 anni lo scorso mese di novembre, ed è una persona con purtroppo diversi problemi di salute ha avuto. Lei è una signora nata in Canada, e in quegli anni, negli anni dopo il dopoguerra, ci fu un'epidemia di poliomielite in Canada, ne furono colpite lei, Neil Young, vari altri artisti canadesi, e nel corso degli anni questa salute cagionevole ha provocato molti problemi anche di carattere psicologico. È strano perché è citata tutt'oggi dalle più grandi artiste e artisti internazionali, anche diciamo molto diversi da lei, mi riferisco a Madonna o a Prince o a Cyndi Lauper o anche a Janet Jackson, come la persona e l'artista che ha più avuto influenza sulle loro opere. Ma nonostante ciò lei è incazzata col mondo perché non ritiene di aver avuto i riconoscimenti, tanto è vero che anche in occasione di un Grammy Award non andò a ritirarlo, mandò il suo vecchio fidanzato dell'epoca, Graham Nash di Crosby, Stills, Nash & Young, a ritirarlo invece sua. È un personaggio però la cui musica secondo me vivrà veramente negli anni, nei secoli, mi verrebbe da dire, perché noi abbiamo avuto, ma tutti, non solo la nostra generazione, la fortuna di vedere dal vivo personaggi che nell'anno 3000 verranno considerati dei geni assoluti dell'umanità. Cioè è come se, ecco, io ti dico che oggi vedere Bob Dylan in concerto è come vedere Shakespeare che mette in atto una delle sue commedie, o vedere Picasso che dipinge. Ecco, Joni Mitchell è di quello stesso livello, e avere la possibilità di averla vista o addirittura averci parlato insieme è un privilegio assoluto. Ecco, una grande songwriter, ma anche una donna di sensibilità estrema nei confronti della musica. Anche lei si è cimentata con gli standard di jazz e anche lei adora il blues. Noi amiamo il blues, è per questo che ascoltiamo uno dei migliori bluesmen della nuova generazione, anche se adesso non è più tanto ragazzino, per quanto fisicamente sembri ancora un ventenne. Si chiama Cab Moy, il brano è molto divertente, dal titolo Soon As I Get Paid. Ecco, questa è una situazione raccontata nel testo di Cab Moy che un po' ci riporta anche alle vicende del nostro paese. Ti posso pagare soltanto quando verrò pagato. Cab Moy al soundcheck di Radio 24. Is the man of the house at home? Your MasterCard is overdue. Appassionato di musica, viaggiatore, giornalista, direttore di jazz e romanziere specializzato in thriller musicali, Ezio Guaitamacchi è l'ospite di oggi del nostro soundcheck qui su Radio 24. Allora, tu hai scritto 1000 canzoni che ci hanno cambiato la vita, 1000 concerti che ci hanno cambiato la vita, Delitti Rock, Rock Files e adesso questo Psycho Killer, Omicidi in Fa Maggiore. È certamente un appassionato di thriller, di delitti musicali, non poteva che scrivere un libro intitolato così. Beh, hai mai pensato che forse la trama di questa pubblicazione magari un giorno può diventare anche un'opera cinematografica? Ti dispiacerebbe questo o no? Sei matto, questo è un sogno, sarebbe bellissimo, un'opera cinematografica, una fiction TV. Sono aperto a qualsiasi offerta, registi, produttori, chiamateci, siamo qua. Le avventure dell'ispettore Marco Molteni, secondo me, meritano, cioè, credo che sia scritto in modo molto visual, no? Per cui è anche è già quasi semi sceneggiato, per cui insomma il lavoro che c'è dietro non è neanche molto complicato. Senti, qui insomma hai scritto due libri bellissimi, Le mille canzoni che ci hanno cambiato la vita, I mille concerti che ci hanno cambiato la vita. Qual è stata la canzone che ti ha cambiato la vita e il concerto che è rimasto nel tuo cuore? È un po' come il primo amore, no? Il primo concerto non lo dimenticherò mai, erano i Jethro Tull allo Smeraldo di Milano, la tournée di Aqualung era il marzo del 1971 e veramente, senza retorica, un po' come San Paolo sulla via di Damasco, io ho visto la luce, letteralmente. Canzoni che mi hanno cambiato la vita ce ne sono tante, qualsiasi canzone di Jimi Hendrix in quegli anni mi cambiò la vita, qualsiasi canzone di Bob Dylan o di Crosby, Stills, Nash & Young, che sono stati per me quello che i Beatles sono stati per i miei fratelli maggiori, quindi quella musica davvero mi portò a sognare la California e ancora la sogno. Sei mai stato negli studi della Stax Records? Purtroppo no. A Memphis, Tennessee ci sei stato più volte. Sì, a Memphis ci sono stato e ero stato negli studi della Sun Records, ovviamente, poi sono stato al Museo del Blues, alla casa di Elvis e andai per una bellissima manifestazione che si chiamava Memphis in Blues, dove era ospite il mio amico Fabio Treves e io gli facevo un po' da, come dire, direttore della comunicazione e reporter per quella tournée. Per cui ho un ricordo bellissimo di Memphis, purtroppo non sono stato agli studi della Stax, ma come quelli della Motown non ci sono stato, ma ci sono, vedi perché mi chiedi perché vai sempre in America, perché poi ho visto tante cose ma c'è ancora tanto da vedere. Assolutamente sì, e ti chiedevo degli studi della Stax, che non so se siano ancora in funzione, però sicuramente l'etichetta è tornata in buone condizioni e ha ricominciato a produrre anche degli ottimi album, e fra gli artisti che sono tornati in scuderia c'è il vecchio Booker T, formidabile organista che qui ascoltiamo con la partecipazione del vocalist Anthony Hamilton in questa composizione originale dal sapore tipicamente gospel. Gently, Booker T e Anthony Hamilton al soundcheck di Radio 24. Ezio, io ti ringrazio per essere stato dei nostri qui su Radio 24, ti auguro ancora tanti viaggi, tanti successi, tanta musica da ascoltare e vorrei regalarti qualcosa, un piccolo mojo che possa lavorare portandoti proprio la fortuna e tutto ciò che di buono puoi desiderare. Grazie Gigi, è stato un piacere e spero che ti divertirai anche tu con le mie avventure a cavallo tra il rock e il thriller, e così come faranno tutti gli ascoltatori di Radio 24, a cui do un arrivederci. Ecco, dicevo un mojo, e praticamente come potremmo definirlo il mojo? I got the mojo working, è un feticcio? È un feticcio, ma è la, come dire, il doppio senso sessuale è fin troppo evidente per essere spiegato, ecco. Allora, quello non te lo voglio dare, ti do invece il feticcio, solo il feticcio che ti possa portare fortuna, con I Got My Mojo Working nella versione del sassofonista Craig Andy, e chiudiamo così questo appuntamento del soundcheck di Radio 24. A tutti voi buona giornata, buona musica e buon pomeriggio da Giorgio Telesforo e Ezio Guaitamacchi, grazie. Grazie a te. Soundcheck. Il suono della musica.